in primo piano. Venerdì 1 aprile, è il giorno degli scherzi del pesce d'aprile? Sì, è quello, però non mi pare di averne trovati sui giornali. Venerdì 1 aprile, le aperture dei quotidiani sono quasi tutte sulla situazione politica, per l'appunto. Napolitano, così non si va avanti, il Corriere della Sera. Parlamento nel caos, allarme del Colle, così Repubblica. Per La Stampa, Napolitano, basta scontri. Per Il Fatto Quotidiano, governo di sbandati. Il Giornale, i tormenti di Berlusconi sullo scontro alla Camera. Per Libero, capitano tutte a lui, a Berlusconi. Napolitano, basta risse per Il Messaggero. L'Unità impietosa mette una delle foto che caratterizza la rissa completa in Parlamento. Un Domenico Scilipoti, l'onorevole Scilipoti, che in fretta e furia, correndosi, fionda in aula, è il momento della votazione. Le invasioni barbariche, così titola l'Unità in prima pagina. Il Sole 24 Ore apre sullo scudo del tesoro su Parmalat, un decreto omnibus, una norma per blindare le imprese, e tra l'altro segnalo, poi la vedremo anche in prima pagina, richiamo, il Sole 24 Ore fa un'intervista al presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, un'idea d'Italia per tornare grandi. Prima dell'ampia pagina politica, da cosa voglio partire? Per il secondo giorno consecutivo voglio partire dalla situazione, dall'inchiesta che sembra più allargarsi del Madoff de Noantri, come è stato già ribattezzato dai giornali, colui che avrebbe truffato 1300 pariolini, persone bene della società della Roma Bene. 1300 è il numero di clienti che è salito a questa cifra, secondo il Corriere della Sera. I VIP truffati ora rischiano l'accusa di riciclaggio. La truffa era con prestiti finanziari, investimenti con promesse di interessi dal 15 al 20%. Poi ovviamente pare fosse tutta una truffa. Usiamo sempre i condizionali, eh? C'è un'inchiesta in corso, degli arresti. Salgono a 1300 le vittime del Madoff pariolino. Il Corriere della Sera. Tra l'altro, alcune di queste persone rischiano di finire da truffati anche secondo la procura, in accusati di riciclaggio di denaro. Nuovi nomi eccellenti o comunque famosi: Heinz Beck, pluripremiato chef che vanta anche il Papa tra i suoi ammiratori, il doppiatore Claudio Sorrentino, la voce di Mel Gibson, Nori Corbucci, la vedova del regista Sergio, vabbè, c'era Sabina Guzzanti, ieri autrice di una spettacolare intervista al Corriere della Sera, il deputato Pier Domenico Martino, un dirigente di Rai 3, Fernando Masullo, regista Ruggero Deodato, la costumista Eleonora Bonicelli, l'industriale della pasta Francesca De Cecco, la stilista Daniela Malpighi. Insomma, sono diversi. Il Messaggero addirittura ne mette un elenco di questi 1200, per la verità. Il Messaggero dice ne mette tantissimi, anche nomi comuni, li trovate tutti a pagina 10. Anche le regine di pasta e caffè nell'elenco dei truffati di Roma, ci sono infatti i nomi che abbiamo già detto, qualche imprenditore. Insomma, tante persone, e c'è anche un'intervista, o meglio un colloquio, che Goffredo Buccini, che ieri ha fatto un bel articolo su Giampiero Castellacci de Villanova, uno di quelli che è finito in carcere per questa truffa, viene raggiunto al telefono dalla moglie. Buongiorno, sono Consuelo Castellacci. Basta fango. Prego, inizia così Buccini. Lei ha scritto un pezzo tremendo. Mio marito Giampiero l'avete già belle condannato. L'avvocato mi ha detto di non chiamarla perché ne ricaverò altro fango, ma sono troppo arrabbiata. Mi ascolti e non le mentirò. E qui inizia lo sfogo di questa moglie, che dice la vera mente di tutto era quel Gianfranco Lande, il capo di tutto l'affare, cioè il broker. Mio marito è stato raggirato da lui. Per la verità, dice, mio ex marito, siamo separati in casa da anni perché lui era un farfallone. Senta, Lande è veramente un disgraziato, ha arraffato i soldi, li ha nascosti chissà dove. Mio marito è stato un fregnone, si è consegnato ciecamente a questo tipo che prometteva interessi al 15-20%. E tra l'altro la moglie di Giampiero Castellacci de Villanova dice: perché tanti gentiluomini non ci hanno pensato di fronte a questi interessi offerti al 20%? Perché non denunciano? Glielo dico io. Perché in certi ambienti, appena senti parlare di guardia di finanza, il panico è completo. Nessuno vuole rogne. Mio marito certo non è un agnello di Dio, d'accordo, però ha portato ai giudici il suo contratto di consulenza. Lui era un dipendente di Lande. E Goffredo Buccini dice, scusi, però è stato un po' lento a capire che la situazione era un po', no? Un po' compromessa. Non faccia lo spiritoso, io mio marito comunque lo rispetto. Diceva, Lande è un genio, per questo prometteva rendimenti così alti. E si conclude l'intervista con un vero sfogo. Dice, guardi signora, Lande è in cella e fa lo sciopero della fame. Ciccione com'è, gli farà bene. Questa la moglie di Giampiero Castellacci di Villanova, che dunque scarica tutto su, sul broker. Anche Libero vi dedica una pagina. I truffati dei Parioli sono furbetti del fisco graziati dallo scudo. Secondo Libero, quasi tutti i VIP coinvolti nella vicenda avrebbero usufruito del condono tributario di Tremonti per far rimpatriare i fondi neri e poi li hanno investiti così. Vabbè, ci saranno altri sviluppi, credo. La seconda segnalazione prima della pubblicità è questa. Voli low cost vietati ai bambini da ottobre. L'annuncio di Ryanair. C'è sia sul Corriere che sul Messaggero. Ryanair pare, dopo aver fatto un sondaggio all'interno dei suoi viaggiatori, e il 36% degli interrogati ha detto sono disposto a pagare di più pur di stare su un aereo dove non c'è il rischio di incrociare dei bambini in viaggio. E allora pare che Ryanair da ottobre lancerà alcuni voli vietati ai bambini per garantire più serenità per tutti gli altri passeggeri. E tra l'altro molti ascoltatori mi segnalano con SMS: vuoi che quella di Ryanair sia proprio il classicone pesce d'aprile? Sono abboccato come una triglia, come tutti i giornali che dicono, chi lo sa, insomma, Ryanair che propone da ottobre viaggi banditi ai bambini, voli banditi ai bambini perché disturbano, che i bambini disturbino in aereo, questa è una notizia vera. Dopodiché bisognerà vedere se è vera questa notizia o se è un pescione d'aprile quello di Ryanair per farsi un po' di pubblicità. Allora, la situazione politica. Come detto, dalle 8.20 avremo uno speciale con Oscar Giannino, dalle 8.20 alle 10 tanti ospiti per capire cosa sta succedendo in Parlamento. Lo vuole capire anche il capo dello Stato, Napolitano, che ieri ha convocato, ha cominciato ieri, lo farà anche oggi, i capigruppo per cercare di fare un colloquio e capire qual è la situazione. In 48 ore il Parlamento, e appena fuori anche dal Parlamento, si è trasformato in un ring. Sentiremo anche tutti gli audio di quello che è successo nelle ultime 48 ore. Il Colle, così non si va avanti, titola pagina 17, il Sole 24 Ore. Tra l'altro c'è il punto di Stefano Folli. Per il secondo giorno consecutivo il Palazzo di Montecitorio ha fatto da sfondo al cortocircuito politico istituzionale in cui sta affondando il dibattito politico, gli insulti in aula, i tafferugli, un oggetto tirato contro il presidente Fini, una frenesia nevrotica all'interno dell'edificio e fuori in piazza. Il vuoto significa assenza o carenza di leadership e rischio di fallimento di una legislatura incartata su se stessa. Qualcuno forse si compiace di questa frattura civile perché ritiene che sia più facile mobilitare l'elettorato, prepararlo agli scontri futuri, ma l'esperienza insegna che non è mai così. E l'eco dell'esplosione di Livorno ieri pomeriggio ha riportato tutti alla realtà. Stefano Folli fa riferimento all'esplosione di un ordigno mandato da un gruppo anarchico a una caserma di Livorno che ha ferito gravemente un ufficiale dei paracadutisti. E insomma, che la situazione sia molto seria, anche il Corriere della Sera, l'avviso, così non si va avanti, alla Camera uno spettacolo intollerabile. Marzio Breda, che è il quirinalista del Corriere, racconta di come Napolitano, tornato dagli Stati Uniti, abbia visto le immagini. Così non si può andare avanti, quello che accade è uno spettacolo intollerabile, questo avrebbe detto il capo dello Stato, più che preoccupato, quasi all'avvilimento, irato e senza parole. Questa è la descrizione di Napolitano. Tra l'altro vi segnalo che oggi più di tutti, se comprate i giornali, guardate le foto che trovate in prima pagina dell'Unità, Scilipoti che corre tutto scomposto, la cravatta che vola, la giacca che si apre per andare a votare. Una foto sul Corriere è incredibile. Ci sono tre ministri, Stefania Prestigiacomo, Alfano e l'altro non lo riconosco, forse è il neo ministro Romano, che si girano verso Fini perché sono andati in aula correndo. C'è la Presti Giacomo che ha la bocca spalancata mentre cerca di infilare la tessera magnetica per votare. Alfano che dice a Fini: aspetta, aspetta, che stiamo votando. Cioè, scene veramente. La seduta, poi la votazione, non sono riusciti a votare, da lì è scoppiata la bagarre. Insomma, una situazione che ha portato anche a degli insulti. Per esempio, viene intervistata da Repubblica la deputata del PD Ileana Argentin. La deputata del PD Ileana Argentin è una disabile, è affetta da una malattia grave, non può muovere le mani. E allora che cosa succede? Che c'è un assistente che l'accompagna in aula, accompagna in tutte le situazioni per cui ha bisogno, un assistente parlamentare che applaude per lei, visto che lei non è impossibilitata a muovere le mani. Al che è successa una bagarre perché qualcuno gli ha detto: non dica all'assistente dell'onorevole Argentin di non applaudire le mani. Dobbiamo applaudire agli interventi perché non è un parlamentare. E al che è successa una bagarre incredibile con la deputata che ora dice: sono stata insultata dai banchi della Lega, mi sono sentita violentata, mi hanno dato dell'handicappata, un insulto offensivo pronunciato in un luogo sacro come il Parlamento. Ed ecco Ileana Argentin intervistata da Repubblica: Francesco, il mio assistente, 24 anni, mi accompagna sempre. Mi si avvicina a un certo punto un collega del PDL, Osvaldo Napoli, col dito alzato in modo minaccioso, mi fa: gli devi dire a questo che non deve applaudire, hai capito? E il leghista Polledri urlava: ha ragione, ha ragione. Allora dai banchi del Carroccio qualcuno ha gridato: non date la parola a quell'handicappata del cazzo. Mi sono sentita quasi violentata perché ho dovuto denunciare tutto il mio limite, che pure è visibile a tutti. C'è questo di vergognoso, che mi abbiano costretta a farlo. E la cosa più grave, quando mi è arrivato vicino l'onorevole Napoli per scusarsi, ha peggiorato la situazione, mi ha detto: io non ti ho mai guardato, quindi non lo sapevo che non muovi le mani. Mi ha fatto una grande pena, perché questi sono così. Anche la destra ha eletto un disabile, un colonnello che a Nassiriya è rimasto in carrozzina, però lui è visto come un eroe, mentre io sono una sfigata e per giunta comunista. E poi, come si sente adesso, orgogliosa di ciò che sono. Sono affetta da amiotrofia spinale sin dalla nascita, ho preso due lauree, convivo con un uomo da tanti anni, mi ritengo una donna felice. Insomma, lo sfogo della deputata Ileana Argentin, che dice: sono stata offesa, mi hanno dato dell'handicappata, una cosa che non mi capitava da anni ed è successo in Parlamento. Anche Aldo Cazzullo, a pagina 6, sotto la foto, quella foto memorabile già di un Domenico Scilipoti che alza la mano destra, corre, la pancia un po' visibile, la scheda magnetica sulla sinistra, corre per andare a votare. Aldo Cazzullo racconta il tutti contro tutti, le risse e le viti dietro l'angolo. C'è anche un retroscena, tutto è nato, lo sapete, un paio di giorni fa, anche dallo sfogo di La Russa, il vaffa di La Russa pronunciato verso Fini. A pagina 4 di Libero, Berlusconi si infuria e La Russa si scusa. Pare che La Russa ieri abbia detto a Berlusconi: mi dispiace, sono andato fuori di testa. C'è anche un giornale lanciato in faccia a Fini. Chi l'ha lanciato questa copia del Corriere della Sera? Pietro Franzoso, onorevole Tarantino di Lizzano, che però sulla stampa dice: no, ma figurarsi se sono io. Chi dice questo ha bisogno di una visita oculistica. Ma è il più grande sospettato, è il più grande sospettato. E poi c'è Alfano, il ministro della giustizia Alfano, uno che di solito è la persona più calma, tranquilla del mondo. Ieri, immortalato appunto in questa foto, mentre dice a Fini: aspetta, aspetta che devo votare, devo inserire la scheda, a un certo punto ha scagliato la scheda che è finita tra l'altro sui banchi dell'Italia dei Valori. Con Alfano intervistato dal Corriere, a pagina 8, dice: figuriamoci se ho scagliato qualcosa contro qualcuno, l'ho lanciata in aria, nell'aula non abitano i robot. Avevo fatto una corsa per andare a votare il processo verbale, avevo raggiunto il banco, ho inserito la tesserina, ma queste votazioni con le impronte digitali sono lunghe, si fa prima fare un bancomat, non ho fatto in tempo, con me altri tre ministri. Ecco, allora diciamo che mi sono sfogato, mi sono liberato della tesserina in maniera sbrigativa. ero e sono serenissimo, è stato il gesto di un istante, non sono pentito di questo gesto, anche se molti mi dicono che bello Angelino, finalmente ti sei arrabbiato anche tu, ma io devo essere sincero, mi arrabbio per essermi arrabbiato. Insomma, allora in realtà è un po' pentito il ministro della giustizia, ripeto, uno che non si scompone mai di un millimetro, no? Nonostante il clima politico sia quello che è. L'ira di Berlusconi, datevi una calmata. Pagina 4 della Stampa, anche per la Stampa, un Berlusconi molto arrabbiato. E il PD invece sembra scegliere molto la piazza. Tra l'Aventino e l'Aula, il PD sceglie la piazza, questo titola Libero. Tra l'altro c'è anche il tema della piazza. Molto interessante, il Manifesto in prima pagina fa un editoriale con il suo direttore Norma Rangeri, Parlamento in piazza domani con Emergency, in piazza in modo pacifico perché non è con gli attentati alle caserme che si difende la causa della pace, ma in piazza anche nei giorni tumultuosi che verranno anticipati dalle convulsioni di una maggioranza stracciona e incontrollabile. Così inizia l'articolo del Manifesto, beh, anche il tema della piazza lo affronteremo certamente dalle 8:20 alle 10, ripeto, in questo speciale. Sentiremo un po' di bagarre all'interno di Montecitorio, quello che è successo, qualche audio. Insomma, il momento politico è questo, di gravissima tensione all'interno delle istituzioni. Tutto questo mentre c'è l'emergenza Lampedusa, che sembra finita nelle pagine 10, 12, 13, 15 dei giornali, ma è un'emergenza ancora molto concreta, tanto che Berlusconi lunedì andrà a Tunisi. Accordi disattesi. Tra l'altro Repubblica cita in questo retroscena di Francesco Bei, ieri si è svolto il Consiglio dei Ministri straordinario per gestire questa emergenza, la posizione del Ministro dell'Interno Maroni, leghista, che vorrebbe fare quasi una forzatura, riportiamoli in Africa con le navi, il Ministro minaccia l'atto di forza, così titola Repubblica pagina 15. Maroni avrebbe detto l'unica sarebbe ordinare ai traghetti di far rotta direttamente sulla Tunisia scortati da qualche incrociatore della Marina Militare. Vediamo se ci impediscono di sbarcarli sulla prima spiaggia che incontriamo. Un atto di forza per il quale, scrive Repubblica, Berlusconi era lì ad annuire, sembrava condividere, si apre il dibattito. Gianni Letta, il solito moderatore, colui che riesce a ricomporre tutte anche le posizioni, dice siamo una grande democrazia, siamo nel G8, dobbiamo muoverci all'altezza delle nostre responsabilità. Insomma, il tema è questo. Intanto lunedì Berlusconi andrà a Tunisi perché pare che anche gli accordi firmati di recente dal ministro dell'interno tunisino con Maroni e Frattini siano stati fatti con questa premessa. Guardate, io firmo questi accordi, ma tra 3 giorni sono dimissionario e quindi mi sostituiranno, non so chi mi seguirà. Quindi c'è effettivamente un problema serio di rapporti con la Tunisia, perché con chi si dialoga, con chi si fanno accordi, che certezze ci sono dall'altra parte, dall'altra sponda del Mediterraneo quando ci fanno delle promesse? E allora Berlusconi vorrà capirlo in prima persona lunedì. Chi invece non indietreggia di un passo è Mantovano, il sottosegretario agli interni, dimissionario per la vicenda dei troppi migranti messi a Manduria, in provincia di Taranto, nella sua Puglia. E Mantovano resiste, così scrive il Corriere, titolo a pagina 17, e l'attacco di Bossi allora è peggio per lui. Insomma, non revoco le dimissioni, così Mantovano ha detto al mediatore Gianni Letta, anche a gestire questa situazione, non revoco le dimissioni. Mentre sul fronte Libia, dall'altra parte, che cosa si registra? Racconta Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che insomma pare che le personalità vicine a Gheddafi, i papaveri del regime libico, comincino a cadere. Perché dopo il ministro degli esteri Moussa Koussa, che ha defezionato, è a Londra, secondo il regime di Tripoli per motivi medici, ma in realtà insomma, ha chiaramente abbandonato Tripoli, aiutato dai servizi segreti britannici. Ora pare che anche un importante ambasciatore, l'ambasciatore che era all'ONU, forse ha lasciato Tripoli. Si tratta di Ali Triki, l'ex ministro degli esteri, già rifugiato da qualche giorno al Cairo, e pare anche Abu Zayed Durda, capo dei servizi di intelligence esterni, avrebbe lasciato Tripoli. Insomma, Alberto Negri racconta di come altre dimissioni stiano indebolendo il regime libico. Anche per Repubblica, Moussa Koussa e gli altri traditori, il regime del Rais può franare dall'interno, è il reportage di Bernardo Valli, uno degli inviati uno degli inviati dei giornalisti di più lungo corso, di più lunga esperienza in Libia. Allora, questa è la situazione internazionale. Vi ricordo ancora lo speciale 8:20-10. Parleremo della situazione politica. La domanda che vi poniamo è questa: rimpiangete i politici della Prima Repubblica nel loro stile, ma anche con i loro difetti? Discutiamo e discuteremo di questo dalle 8:20. E invece, dopo il traffico, ripartiremo da che cosa? Dal Sole 24 Ore, che, come detto, oggi intervista il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia con le idee per fare un'Italia nuova. Le idee per fare un'Italia nuova, questo è il titolo dell'intervista che il Sole 24 Ore fa alla presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, l'intervista di Alberto Orioli, la trovate a pagina 5 con un richiamo in prima pagina. Si parte dalla decisione di Confindustria il 7 maggio, una decisione del tutto inusuale, di chiamare tutti gli imprenditori alle grandi assise nazionali. C'è un unico precedente nel 92, quando il governo era Amato, e esordisce proprio da questa decisione la Marcegaglia a dire: il momento è drammatico, ma non vogliamo abbandonare la speranza, lasciare il campo e perdere lo spirito di proposta e spinta per la politica e per la società. Intanto uno sguardo proprio a questa politica definita distratta. E diciamolo, dice la Marcegaglia, lo spettacolo che sta offrendo il Parlamento è deprimente, inaccettabile per il Paese. Se sono proprio le istituzioni a dare la sensazione di non comprendere quanto sia seria la situazione interna e internazionale, è doppiamente grave. Poi parla della situazione nucleare a partire dal Giappone. Tutto serve tranne che le fughe solitarie di Berlino o Parigi, dice la presidente di Confindustria. Semmai servirebbe più Europa come vorremmo che fosse. La tragedia del Giappone ha messo in crisi la terza economia del pianeta, ha imposto al mondo di ripensare il nucleare, ma resto convinta che non si debbano prendere decisioni strategiche in tema di energia sull'onda delle emozioni. Sulla frustata dell'economia promessa dal governo la stiamo ancora aspettando, lo scenario è quello appena descritto. Finora l'unico pacchetto di semplificazioni serie e utile è stato rimandato, il piano nazionale delle riforme nessuno l'ha ancora visto. E poi parla in questa lunga intervista dei vari punti di sviluppo proposti da Confindustria: la crescita, il mercato, il merito, questi tre punti fondamentali. In conclusione dice: saranno assise molto più di proposta che di protesta. Non saremo l'ennesima voce urlante nella rissa pubblica. Saremo in tanti, compatti nel dire che i temi dell'impresa sono i temi del paese. Insomma, uniti si può decidere l'Italia da fare. Questa è l'intervista a Emma Marcegaglia. Restando in tema economico, meglio finanziario, c'è una classifica interessante che il Corriere della Sera mette in prima pagina. Ecco la classifica dei 25 manager più pagati in Italia. Come si fa per il Corriere? Eccolo qua. Eccolo qua. Ecco i 25 manager più pagati d'Italia di Giovanni Stringa. Sono cifre fornite dalle stesse compagnie quotate in borsa. Allora, chi è il manager più pagato in Italia? Alessandro Profumo. La cifra è 40.590.000 euro. Sembra sbalorditiva, però è comprensiva, però, della liquidazione da ex amministratore delegato di Unicredit. Quindi 38 milioni sono la liquidazione e più il compenso, si arriva a 40.590.000 euro. 38 milioni di liquidazione, 36,5 la voce incentivo all'esodo e 1,5 per un patto di non concorrenza. Al secondo posto, quindi nettamente staccate, diciamo, con la liquidazione Alessandro Profumo diventa al primo posto, ma inarrivabile, 40.590.000 euro. Al secondo posto Luca Cordero di Montezemolo, 8.713.000 euro. Al terzo posto Marco Tronchetti Provera, 5.950.000 euro, quasi sfiora i 6 milioni. Segue in classifica Cesare Geronzi al quarto posto con 5.088.000 euro. Al quinto posto Paolo Scaroni con 4.420.000 euro. Poi vabbè, li trovate, sono Guarguaglini, Confalonieri, Balbinò. Nono è Sergio Marchionne con 3.473.000 euro, e via via, insomma, tutti gli altri. Ecco la classifica, i 25 manager più pagati d'Italia. Oh, c'è spazio per la cronaca, qualcosa? Beh, trovate molto di questa analisi, di questo pacco bomba arrivato alla caserma in Livorno dei paracadutisti. un pacco bomba rivendicato dalla Federazione Anarchica Informale, che già in passato ha colpito. Tra l'altro c'è il racconto di chi è Alessandro Albamonte, il tenente colonnello che è rimasto gravemente ferito, ha perso le dita di tutte le dita di una mano e le dita di anche tre dita, credo, di un'altra mano. Ma si racconta, pagina 11, guarda cosa mi è successo, il sangue freddo dell'ufficiale, uno che è stato varie volte in missione a Herat, in Afghanistan. Racconta Pietro Ribezzo che era accanto a lui quando la busta gli esplose in mano, è riuscito in modo quasi incredibile ad avere una freddezza, con la massima calma si è rivolto verso di me dicendo guarda cosa mi è successo alle mani, definito un uomo di ghiaccio, gentile ma determinato, originario di Taranto, classe 1970, padre di un bambino di 4 anni con la moglie avvocatessa in attesa di un secondo figlio. Questo è successo, ci cerca di capire anche chi sono, cioè già in realtà si capiscono, questa Federazione Anarchica Informale che già in passato ha colpito con pacchi bomba. Voglio chiudere solo con una segnalazione in prima pagina di Libero che riguarda Roberto Saviano. C'era solo Libero, Saviano copia anche gli albanesi, questo è il titolo di prima pagina, li sfrutta e non li cita, racconta Francesco Borgonovo, conoscendolo dirà che è tutta colpa della macchina del fango, noi ci limitiamo a riportare i fatti. Roberto Saviano, scrittore, stella della televisione, ha fatto parecchio arrabbiare il giornale albanese Investigim, che sul numero del 21 marzo gli ha dedicato un titolone di prima pagina, Saviano, chi è costui? All'interno il direttore Alket Aliu accusa l'autore di Gomorra di fare carriera sulle spalle degli altri perché quando di recente, questi sono i fatti, è andato intervistato dalla TV albanese, ha citato alcuni documenti dicendo guardate provano che lo Stato albanese era in contatto con la Camorra, cioè membri dello Stato, insomma, erano in contatto con la Camorra, tutti i documenti che questo giornale albanese aveva già messo in prima pagina da tempo. E tutto questo, dice il giornalista, il direttore di questo giornale Investigim, lo ha fatto non citando il giornale, ma parlando anche come se dovesse spronare i colleghi di un paese arretrato a darsi una mossa. Saviano saccheggia anche gli albanesi, questa è l'accusa che viene data da Libero in prima pagina. Vabbè, io tutta la settimana non ho letto la Gazzetta e non lo farò neanche oggi, perché tanto che serve leggere la Gazzetta dello Sport, cioè il titolo della Gazzetta dello Sport prima che avvenga la partita del millennio. Vabbè, no, oggi la Gazzetta fa un'intervista esclusiva a Samuel Eto'o. Milan, fatti sotto. Questo è il titolo di Samuel Eto'o alla vigilia del derby. Attento, il derby può cambiare la testa e non solo quella della classifica. Samuel Eto'o parla pagina 2 e 3. Ed è immortalato in prima pagina con anche pettorali al vento. E voglio segnalare solo Gene Gnocchi, il rompipallone, ennesimo colpo di mano di Berlusconi, entro 24 ore rimpatrierà tutti gli extracomunitari dell'Inter. Ci fermiamo, c'è il giornale radio e poi lo speciale dalle 8:20 con Oscar Giannino sulla situazione politica in Italia.